Il falco e il gabbiano. E il gabbiano di Enrico Ruggeri. Le Olimpiadi sono sempre state una fonte inesauribile di storie, perché le Olimpiadi, lo sport in generale, hanno dei risvolti umani che ci interessano molto. E abbiamo parlato anche di Pierre de Coubertin, abbiamo anche detto di quella frase che gli è stata attribuita, non sappiamo se è esattamente vera, però è passata alla storia: l'importante non è vincere, ma partecipare. Ecco, noi oggi raccontiamo la storia di un uomo, un grande atleta, che ha partecipato a quelle mitiche Olimpiadi di Città del Messico del 68. È andato vicino alla vittoria, vicino alla gloria, però poi ha provato una delusione che forse non è mai riuscito a metabolizzare completamente. Uno che voleva vincere e che nello spazio di poche ore è stato il migliore al mondo e poi si è dovuto accontentare di un gradino molto più basso del podio. Parliamo di atletica leggera. La storia di oggi è quella di Giuseppe Gentile. Monte Sacro, il quartiere di Roma in cui tutto ha inizio. 4 settembre 1943 nasce Giuseppe, figlio di Vincenzo, peraltro parente di quel Giovanni Gentile che fu filosofo e politico in epoca fascista. Il padre lavora in prefettura, non ci sono problemi in famiglia. Giuseppe cresce dividendosi tra scuola, sport e principalmente atletica. È una passione di famiglia. Ogni tanto Giuseppe ruba le scarpe da corsa della sorella e va nei prati dietro casa, quelli che oggi sono stati sostituiti da interi quartieri. Avrò avuto 10 o 11 anni e da un paio avevo preso l'abitudine pomeridiana di andare al cinema da solo. All'epoca abitavo a Roma, nel quartiere di Monte Sacro, e spesso nel tempo libero andavo a vedere i film in programmazione al Cinema Espero. Mi piaceva immergermi nel buio della sala e lasciarmi coinvolgere dalla storia che scorreva davanti ai miei occhi. Così Gentile racconta nella sua autobiografia La medaglia condivisa, edito da Fuori Onda. Bene, quel giorno il film in programmazione è Pelle di rame, il film che racconta la storia di Jim Thorpe. Qualcuno di voi, sono sicuro, si ricorderà perché ne abbiamo parlato. Era il Pelle Rossa che vinse le Olimpiadi, che poi ebbe una serie di vicissitudini. Bene, il piccolo Giuseppe rimane folgorato dal fascino di quella storia, ma soprattutto di quella competizione, la competizione che incorona il miglior atleta del mondo in ogni specialità. Intanto siamo nel 58, Giuseppe frequenta il Giulio Cesare a Roma e tramite però il suo insegnante di ginnastica conosce Gigi Rosati, che è l'allenatore del CUS Roma. E lui si sta allenando, Giuseppe, però si allena per il salto in alto. Rosati comincia a fargli provare delle altre discipline, giavellotto, salto in lungo, 400 ostacoli, che peraltro è quella che in quel momento Giuseppe preferisce, Giuseppe Gentile, perché si mischiano velocità, resistenza e salto. Poi l'anno successivo c'è una manifestazione in cui non c'è nessun atleta a gareggiare nel salto triplo. Rosati chiede a Gentile se vuole provare. Non avevo mai provato il triplo e Gigi dovette partire dall'ABC, staccare, dopo lo stacco ricadere sulla stessa gamba, poi ricadere sull'altra e infine atterrare in buca. Io ascoltavo con attenzione, ma non potevo neppure immaginare che quel giorno si erano messi in moto eventi che avrebbero cambiato la mia vita per sempre. Il salto triplo è una specialità molto particolare, lo chiamano spinta passo salto perché c'è un primo salto con cui atterri col piede col quale è ripartito, poi un secondo che atterri col piede opposto e poi con entrambi i piedi ti vai a lanciare per lo step finale nella sabbia. L'esordio in quella gara di Giuseppe Gentile è veramente inaspettato perché salta 13,92, miglior risultato stagionale, insomma gli si aprono le porte della nazionale juniores. Il ragazzo va motivato, Gigi Rosati è molto bravo in questo, gli viene insegnato lo spirito di competizione, la dedizione nell'allenarsi per inseguire dei risultati, prefissare un obiettivo da raggiungere, insomma tutte le cose che fanno gli sportivi. Quale poteva essere l'obiettivo migliore se non il record del mondo, cioè l'obiettivo super per poter dimostrare di essere migliore di tutti e magari realizzare proprio questo record del mondo nella competizione più importante, cioè le Olimpiadi. Fin dall'inizio sono cresciuto sportivamente con la convinzione che le altre gare non avessero molta importanza. Nella visione mia e di Gigi, erano solo tappe di avvicinamento al grande momento, la gara olimpica. Beh, la strada naturalmente è lunga, è difficile, bisogna crescere, diventare maggiorenni, bisogna acquistare credibilità, avere costanza di rendimento per riuscire a fare un buon risultato a livello internazionale. Così nel 61, raggiunti 18 anni, Gentile si trasferisce a Formia, dove c'è il centro di allenamento federale. Nel 62 partecipa a uno di quegli incontri tra nazioni, confronto Italia-Germania, e tocca a Gentile, effettua il suo primo salto. Alla prima prova feci un bellissimo salto. Il giudice di pedana, tedesco, alzò la bandierina bianca e si diede inizio alla misurazione. Ne venne fuori un fantastico 16,27, nuovo record italiano, con un miglioramento di ben 17 centimetri sul precedente record. Ma proprio mentre ero sul punto di esultare, il giudice di pedana, colto da dubbio, controllò più attentamente il punto di stacco e decise di assegnare un nullo. Mi cadde letteralmente il mondo addosso. Ero arrivato a un passo dalla prima affermazione rilevante della mia carriera e di colpo questa era stata cancellata. E questo è il primo brusco contatto tra Giuseppe Gentile e la sconfitta, il subdolo nemico dell'atleta, perché è un nemico che agisce a livello mentale. Il colpo è duro, i tre anni successivi sono anni di risultati molto modesti, la promessa del salto triplo sembra svanita nel nulla. Il falco e il gabbiano. Beh, nella carriera di quasi tutti gli atleti ci sono dei momenti bui, non ci si riesce più a esprimere ad alti livelli, accade nel calcio, ma nel tennis, nell'atletica. Bene, a volte un piccolo accorgimento ribalta la situazione di stallo. E così Gigi Rosati, l'allenatore di Giuseppe Gentile, gli suggerisce di cambiare il piede di stacco, dal destro al sinistro. Cambiando piede di stacco, lui con l'ultimo salto salta con il destro, che è il suo piede naturale. È un cambiamento notevole, insomma, in termini di mentale, in termini di allenamento. Però lui cambia e riesce a essere più potente. Nel 1965, il 29 giugno, accade una cosa molto importante in una gara regionale a Roma. Anche quella volta mi ero iscritto senza molta convinzione. Credevo di essere ancora nel mio periodo buio. Invece al primo salto realizzai 16,17, superando il primato esistente di 7 centimetri e il mio record personale di quasi 40. E questa volta il giudice alza la bandiera bianca, il salto è buono, gli altoparlanti dello stadio della Farnesina annunciano il record, Gentile e Rosati si abbracciano, scoppiano in un pianto liberatorio. Così come era stata insopportabile la sensazione della sconfitta, ecco che questo colpo d'ala rimette tutto a posto. Giuseppe Gentile diventa primatista italiano della specialità e grande promessa della nostra atletica. E due mesi dopo salta 16,31, altri 14 centimetri aggiunti, e in ottima forma, si può tornare a parlare di Olimpiadi. E lui è in uno stato di forma incredibile, partecipa a molte gare, addirittura gareggia nel salto in lungo pur di sentirsi addosso l'adrenalina della competizione. In una gara alle Terme di Caracalla si trova a vivere una situazione paradossale, perché dopo il terzo balzo si accorge che la buca di sabbia sotto di lui sta finendo e quindi, anziché continuare, diciamo, a distendersi, è costretto a raccogliere le gambe e atterrare al limite, 16 metri e 70, e lì finiva la pedana. Se fosse stata più lunga, lui è convinto che sarebbe andato oltre, magari raggiungendo il primato del mondo, che in quel momento era fermo a 17,03. Ero in condizioni di forma invidiabili, mi sentivo imbattibile. Dentro la mia testa però non ci fu disappunto. Avevo capito di valere il record del mondo, e questo proprio poco prima della gara su cui avevo incentrato i miei sogni, la mia carriera, la mia vita. Potevo partire per il Messico fiducioso e determinato. Abbiamo parlato tante volte delle Olimpiadi di Città del Messico, perché sono state Olimpiadi particolari. Ogni medaglia d'oro nascondeva una grande storia. Pensate alla protesta degli atleti di colore americani Smith e Carlos. Pensate a Bob Beamon, che era volato nel salto in lungo e aveva raggiunto gli 8,90 metri, superando di 55 centimetri il record precedente. Insomma, Olimpiadi grandi dal punto di vista atletico, anche perché c'era l'area rarefatta e quindi la velocità e i salti potevano, come dire, generare migliori prestazioni. Però erano anche Olimpiadi particolari, perché fuori dal villaggio olimpico c'era la protesta, che era diventata sanguinosa. C'era stata la strage di Piazza delle Tre Culture ad opera della polizia messicana e degli studenti solo 10 giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi. Il Messico si presentò al mondo come se tutto fosse normale, e invece sotto alla cenere covava un fuoco che bruciava e che faceva male. Ma all'interno del villaggio naturalmente l'aria è diversa. Ci sono gli atleti che fraternizzano tra di loro, c'è il solito clima di amicizia e di rispetto tipico degli ideali di De Coubertin, gentile e eccitato da tutto quello che vede e informa. Si diverte nel vedere i giornalisti che inseguono gli atleti per intervistarli. Insomma, il suo primo obiettivo era stato raggiunto: arrivare alle Olimpiadi. Ora bisognava raggiungere il traguardo finale, che per lui era solo la vittoria. Anzi, lui voleva vincere stabilendo il record del mondo. Lui lo sa che tutti e due i risultati erano alla sua portata. Arrivano i salti di qualificazione la mattina del 16 ottobre 1968. Lui si sveglia, con calma raggiunge lo stadio. Alle 11 inizia la gara di qualificazione. La misura per qualificarsi alla finale era 16,10 metri. Sentite Gentile come ricorda quel giorno. Porta emozione, perché 16,10 era una misura importante. Io l'avevo fatta quell'anno, ogni gara aveva dato oltre quella misura, ma non mi nascondo che, nonostante fosse una misura, diciamo, sicuramente la mia portata, io c'avevo paura. E la paura gioca brutti scherzi quando può inficiare la concentrazione. Il primo dei tre salti a disposizione è nullo. Tornano gli incubi che avevano messo a rischio la carriera di Gentile. La tensione al massimo. Lui non vuole arrivare al terzo salto, vuole qualificarsi già al secondo. Si concentra e inizia la rincorsa. Gentile nel progressivo stacca primo, secondo, terzo salto. Una misura molto notevole, soprattutto grazie al terzo palco. All'interno dello stadio tutti capiscono che sta succedendo qualcosa, e infatti il tabellone luminoso mostra quattro cifre: 1710, 1710, 7 centimetri in più del precedente record. Gentile viene abbracciato da Felipe Areta, l'atleta spagnolo che sta contendendo la medaglia d'oro a Giuseppe. In questo momento lui ha scoperto le carte, perché il giorno dopo c'è la finale. Lui si presenterà in finale come il primatista del mondo in carica, uomo da battere. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Giuseppe Gentile, l'atleta romano che nel 68 alle Olimpiadi del Messico ha stabilito il nuovo record del mondo del salto triplo, 17 metri e 10 centimetri in qualificazione. È una misura notevole, che però lo ha messo allo scoperto, perché gli avversari adesso vedono in lui l'uomo da battere. Arriva il giorno successivo, 17 ottobre 68, c'è la finale, tutti gli occhi sono puntati su di lui. La tensione è alle stelle. Dal livello di partecipazione con cui vi sto raccontando la storia avrete capito che io quel giorno 11 ero davanti alla televisione. I campioni sono tanti, c'è uno spagnolo, si chiama Luis Felipe Areta, uno che tra l'altro poi diventerà sacerdote alla fine dell'attività agonistica, ma soprattutto ce ne sono due, un brasiliano che si chiama Nelson Prudencio e il russo Viktor Sanayev, del quale il mondo dell'atletica sentirà parlare a lungo, perché vincerà l'oro olimpico anche nel 72 a Monaco, nel 76 a Montreal. Comincia la gara, Giuseppe Gentile ha la pettorina numero 508, primo salto. Attendiamo adesso il responso, 17 metri e 22 centimetri, nuovo record mondiale. Eh sì, nuovo record mondiale, batte di 12 centimetri il record stabilito il giorno precedente. Sembrerebbe una gara chiusa, e invece la gara è appena cominciata. Il russo Sanayev prende la sua rincorsa, stacca bene il tabellone, dà il suo verdetto. Ed è un verdetto amaro, 17,23, un centimetro in più del salto di Gentile. Il russo esulta, ma non fa neanche a tempo a rendersi conto, perché va in pedana il brasiliano Nelson Prudencio. Chiaramente in attenzione difficoltà. Studio. Si vai Valenti. Vai. Altro colpo di scena nel salto triplo. Il brasiliano Prudencio ha ancora una volta battuto il primato mondiale. 17,27. È la più grande gara che sia mai vista di salto triplo. Forse una delle più grandi gare in senso assoluto dell'atletica leggera. Eh sì, perché sta succedendo qualcosa di incredibile quel 17 ottobre del 68 a Città del Messico. Tre atleti, quattro salti, quattro record del mondo. Una progressione unica e naturalmente favorita dall'aria rarefatta, dall'altitudine di Città del Messico, 2250 metri sul livello del mare. Però ci vogliono poi le gambe e gli uomini. Fatto sta che Gentile in questo momento è terzo dopo essere stato primo, dopo essere stato il migliore del mondo dopo aver battuto il record del mondo. Cercai con tutte le mie forze di andare oltre la mia e la loro misura, ma non ci riuscii. Avevo a disposizione ancora 5 salti, ma furono tutti nulli tranne il quinto. Dovevo fare meglio di 17,27, per cui caricavo la rincorsa e cercavo la pedana perfetta senza mai trovarla. Nell'unico salto valido effettuato, nel tentativo di tirare al massimo i salti, mi sbilanciai allo stacco del terzo balzo e atterrai a 16,42. Eh sì, Gentile non c'è più con la testa, mentre gli altri due, Prudencio e Sanayev, continuano a combattere, a inanellare salti facendo grandi misure. E poi il russo mette tutti a tacere perché si supera ancora 17,39. In quel memorabile giorno d'ottobre, tre atleti hanno dato uno spettacolo unico al mondo, hanno stabilito 5 record mondiali uno dopo l'altro in una lotta che è individuale, perché pone, diciamo, ogni atleta di fronte ai propri limiti fisici e soprattutto mentali. E per Giuseppe Gentile si sta prospettando un triste ritorno a casa, triste per come era lui e qual era il suo atteggiamento. Ha vinto la medaglia di bronzo, ma per lui è una sconfitta. E il giorno dopo lui si imbarca su un aereo diretto a Roma e rientra a casa prima della fine dei giochi. L'ha presa malissimo, la delusione è enorme. A Fiumicino c'è Gigi Rosati a aspettarlo. I due si abbracciano, piangono, commentano la gara, pensano agli errori più importanti. Bisogna ripartire però, perché in fondo Gentile ha solo 25 anni, non è che può mollare il colpo per le Olimpiadi successive, quelle di Monaco. Ma intanto lui è uno dei grandi campioni olimpici e un po' c'è da sfruttare quel momento. Sul settimanale Oggi Gentile appare in un servizio fotografico accanto a una Fiat Dino. Una persona particolare sta guardando quel giornale e leggendo quell'articolo. Pierpaolo Pasolini sapeva già del mio risultato olimpico quando vide il servizio fotografico e lesse l'intervista. Tutto partì da lì. Mi telefonò personalmente e ci incontrammo, insieme al produttore televisivo Renzo Rossellini, nipote di Roberto, e al costumista Piero Tosi, all'Escargot, un famoso ristorante romano dell'epoca. Eh sì, Pasolini, che è un uomo di vedute apertissime, e sta cercando qualcuno per fare la parte di Giasone nella versione cinematografica della tragedia greca Medea. La protagonista è la grande Maria Callas. Lui vuole un volto particolare, un volto diverso, e sceglie lui. Ha dei timori ovviamente Gentile, perché sa benissimo di non essere un attore, però verrà doppiato. Nino Castelnuovo parlerà, diciamo così, in sua vece, togliendo quel accento romano molto marcato. Si va a lavorare in Turchia, però Gentile capisce subito che il cinema non può essere che una parentesi nella sua vita di atleta, e lui pratica uno sport in cui non ci sono persone che gli dicono quello che deve fare, è responsabile delle sue azioni. Insomma, non gli piace, si sente una marionetta in mano a truccatori, costumisti, operatori e al regista, anche se il regista si chiama Pierpaolo Pasolini. Quando rividi il film nelle anteprime, rimasi assolutamente scontento. Non ero soddisfatto della mia performance e mi sentivo complessivamente ridicolo. Il dilettantismo della mia recitazione emergeva sovrano e strideva con il desiderio di professionalità che invece ricercavo con pervicacia nello sport. Beh, invece non è esattamente così, perché io mi ricordo, insomma, certo, non parliamo di Marlon Brando, però aveva una faccia perfetta per quel ruolo, gentile, con quella barba un po' selvatica. Comunque, gentile, fa qualsiasi cosa pur di non pensare a quel record raggiunto e svanito. In quel momento, però, bisogna mettere da parte questo miraggio di guadagni, di cinema, di televisione, anche perché, peraltro, gentile di buona famiglia, famiglia benestante, e lui prende un buon stipendio dal CONI. Bisogna ricominciare gli allenamenti perché ci sono in vista le Olimpiadi di Monaco del 72. Negli anni di avvicinamento alle Olimpiadi, intanto Gentile ha messo su famiglia, è nata una bambina che si chiama Samantha. Lui si trasferisce per lunghi periodi in California, segue un allenamento specifico fino al 71. L'obiettivo delle Olimpiadi si avvicina, lui partecipa solo a gare marginali e non ottiene mai grandi risultati. Sembra che gli manchi il mordente, il colpo d'ala per tornare a volare oltre i 17 metri, che ormai sono, come dire, la misura oltre la quale si può cominciare a ambire a qualcosa. A Milano fa una gara che fa ben sperare, salta 16,72, in qualche modo si sta rimettendo in carreggiata. Una sera decidemmo con Gigi di andare a Gaeta, a un cinema all'aperto. Era molto umido e indossavo un leggero giubbotto impermeabile per ripararmi nonostante il caldo soffocante. Ma non fu sufficiente. L'indomani, appena alzato, andai tranquillamente in piscina, come spesso facevo prima dell'allenamento della mattina. Ma quando mi tuffai in acqua, sentii una fitta improvvisa e fortissima sotto le scapole. È un risentimento muscolare, vengono saltate tutte le gare di avvicinamento alle Olimpiadi di Monaco. Bisogna ancora peraltro ottenere il limite per accedere alla finale, un limite che è a 16,04, quindi una misura assolutamente alla portata di Gentile, però lui risente ancora dell'infortunio, non ce la fa, e questa volta è veramente la fine del sogno. Il ritiro non è tanto traumatico, perché Giuseppe Gentile ha già un incarico federale alla Scuola dello Sport, svolge un lavoro da dirigente, si occupa di formazione. In realtà il rospo da digerire non è quello, il rospo da digerire è ancora quel terzo gradino del podio alle Olimpiadi del 68. Per tanti anni ho considerato quel bronzo una sconfitta. Avevo sognato di appartenere agli dèi. Mi ero dovuto risvegliare con la consapevolezza di appartenere agli umani. L'idea di essere stato così vicino al trionfo, di aver sfiorato una sorta di immortalità, per poi ridiscendere sulla terra, è stata per più di 20 anni dura da digerire. Poi, probabilmente per un puro istinto di autodifesa, ho capito che dovevo fare i conti con il passato. Il classico discorso del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Un uomo che fa 2 record del mondo e arriva terzo, una medaglia di bronzo alle Olimpiadi, prima e unica volta in cui un triplista italiano va sul podio, rimane comunque tutta la vita segnato e infelice perché vede il bicchiere mezzo vuoto, perché vede quella medaglia d'oro sfumargli davanti e andare al collo di un altro. Questa è la storia dei rimorsi e dei rimpianti di Giuseppe Gentile, che comunque ha regalato alla nostra atletica un bellissimo colpo d'ala. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare al Falco il Gabbiano chiocciola Radio 24 delle storie che voi volete che noi si racconti, e poi potete seguirmi, interagire con me sul sito di Radio 24, sui miei social, sui social della trasmissione, insomma, se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani.